In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare. E li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze. Come anche di essere chiamato rabbi dalla gente. Ma voi non fateli chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi fra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Molto spesso noi quando veniamo esortati dai sacerdoti o dalle persone consacrate o da persone molto addentro alla vita della Chiesa, quando veniamo esortati a comportarci bene, di solito siamo un po' infastiditi se vediamo queste stesse persone comportarsi in maniera opposta a quello che insegnano. E quindi mettiamo spesso la scusa: ah, io non vado più in chiesa perché il sacerdote che dovrebbe dare il buon esempio non lo dà, e quindi io preferisco non andare in chiesa. Ecco, prendiamo a scusa, ad alibi, il comportamento dei sacerdoti o delle persone religiose per giustificare la nostra mancanza magari di seguire gli insegnamenti del Signore. Ecco, Gesù oggi ci dice: tu non fare quello che fanno queste persone, ma quello che dicono. Perché quello che dicono è anche giusto, quello che insegnano è anche giusto, quello che fanno non è giusto. Perché? Perché non sono coerenti con quello che insegnano. Allora, qui oggi in questo brano ci sono due insegnamenti importanti. Innanzitutto questo di cercare di mettere in pratica quello che le nostre guide, i nostri sacerdoti, quello che insegnano piuttosto che quello che fanno. E quindi non giustificarci e dire: ah, io non voglio essere come loro, quindi non vado più in chiesa. Né però l'altro insegnamento grande è quello di fare ogni cosa non per essere ammirato dalla gente, non per essere esaltato dagli altri, non per compiacere qualcuno, non per ottenere dei privilegi, non per essere sulla bocca delle persone, non per sentirsi importanti, ma fare tutto per la gloria di Dio, fare tutto perché è buono quello che stiamo facendo e perché vogliamo seguire il Signore. Allora, il compito oggi per ognuno di noi potrebbe essere questo: innanzitutto domandarci, ma io quando agisco, per chi agisco? Da chi voglio essere ammirata? Da chi voglio essere considerata? Forse ho paura di non essere amata abbastanza, forse non ho ancora sperimentato l'amore gratuito di Dio. Dio mi ama così come sono. Non devo dimostrare a nessuno qualcosa di diverso da quello che sono. E poi l'altra cosa, cercare di Non prendere mai come scusa il comportamento sbagliato di sacerdoti o chi per loro per giustificare, per continuare a fare qualcosa che sappiamo che non è giusto fare, semplicemente perché abbiamo ricevuto questi cattivi esempi. Buona giornata.